questo all'interno, però faceva questo difetto, l'ho riattaccato e faceva di nuovo il difetto, però il commutatore, si ha bisogno di luci, non la metto più. No, il commutatore già lo puoi mettere, però bisogna comprare un commutatore buono, non si vuole comprare anche il commutatore da 20 euro, non funziona, non ti chiude il passaggio dell'antenna, capito? Io ce l'ho della Daiwa, per esempio, e l'altro che ho è della Uxi, no, non è Uxi, è CN201, è sempre tipo Daiwa, da. È Daiwa quello. E dai, anche quello celeste, quello che ho mandato in foto. Sì, è Daiwa quello. E l'altro che c'hai è Daiwa, tutti e due Daiwa sono quelli. Ma la Prox è già meglio di quelli a ZG, non è eccezionale, ma quelli a ZG c'hanno proprio una lamellina che passa in mezzo, eccetera. Ci vuole un bel commutatore massiccio per poter chiudere, altrimenti è un casino. E così ha fatto la Gianfranco Silvestro, poverino. Cioè, uguale, precisi niente. Stazionari a 1000, ma anche Roberto Quadrato gli ha fatto la stessa cosa. Anche lui l'ha attaccato. Non servono a niente, non ne comprate di quelli del ZG. Non servono assolutamente a niente. Ma tu, Riccardi, quando tu metti la radio nello stesso canale, il segnale quando tu giri il commutatore sulla radio e ti tieni accesa l'altra, il segnale te lo passa anche nell'altra? Mi sa di sì. E allora non pazzire, non si vede neanche quello. No, aspetta, fischia solo, non si sente nell'altra radio, si sente solo il fischio. Se c'è il volume sollevato è chiaro che senti il fischio, l'importante non si muova il segnale. Però ti conviene spegnerla. Ti conviene spegnerla, se non c'è un buon commutatore di quelli abbastanza costosi, spegna. Io quando ho le 3 PF accese, per esempio, però ho un commutatore a me di trombe che mi fa cose a relè e la base è sopra, quindi qua c'è solo il control box che comanda, però quello chiude non senti manco la mosca volare, ma è a relè, è un'altra cosa, capito? Però spegnila la radio, perché quando non la stai usando che ne usi una, l'altra spegnila, non te ne frega niente, capito? No, sì, no, io l'ho capito male, no, non ne posso segnalare all'altra, solo il fischio fa come hai detto tu, solo quello. E comunque mi è successo poche volte che avevo la radio accesa, tutte le volte quando uso una radio tutte le altre sono spente. Bravo, così devi fare. Allora, vediamo lo prefetta se è rientrato. Lo prefetto. Ma tu prefetto sì o prefetta? Non c'è, riprendi già. Ma è Claudio che l'ho arrugginito. Io ti dico, l'ho rilanciato e non riprende, non so cosa sta combinando. E Julius? Giulio ha detto che in quel Rix sta guardando non so che cosa. Ah, allora allora se non la sta pure un po' così. Forse è meglio. Io esce a vedere. Guarda un po' qua. Va bene. Ok, va bene. A posto. Si sente il tic del lock. Stazionaria non si muove l'ago. Tutto di lusso, no? Si antenna atteggiando la Siri o la Mantova? No, questa è la Siri, la Mantova va sull'altra radio. È uguale, geniale. Già va bene. Mi abiti attenzione oggi. Ciao Eugenio, buonasera, ben entrato e ben scuzzolato. Non mi sento a me, no. Avanti Riccardi, lo senti a Eugenio B2 che sta cantando? Che lo sento all'usignolo, lo saluto, ciao Eugenio. Gappa, andà bene, va bene. Un secondo, arrivo subito. Sì, già siamo qua, dai, avanti già. Gianni. Bene, mi ascolti Ricca? Sì, perfettamente, e ti ascolto benissimo. Oh, devo chiudere, dai, devo fare una cosa, mi metto l'apparato in macchina, ti riporto. Andiamo a me, ciao. La fuga di cervelli. Eh sì, ma è Luca. Luca non c'è, Luca Manicoio. Allora, sono di nuovo qua, cambio. Cambio. Vabbè, oggi, com'è? Stai uscendo o stai entrando? Cosa? Stai uscendo o stai entrando? No, io entro alle 6:30 oggi. Cambio! Ed esco alle 8, cambio! Comunque ciao Eugenio, e tieni al telefono. Ciao ricordino bello, amico mio. E allora, dove va? Sta posto? Tutto a posto. Meglio così, meglio così. Ciao Eugenio. Buonasera, Giovanni. E allora? Eia, bene va, arrivo lì. Giovanni, arrivi, arrivi alla grande, Giovanni. Mi fa piacere Eugenio. Perfetta la grande, da questo parti qua. Cambio. Cambio, cambio. Ma stai usando Eugenio, quell'antennino piccolo? L'altra è alta. L'altra non ce l'hai più, quella flash. Sì, ce l'ho. Ah, positivo, no, già esci bene anche con quella piccola, comunque già arrivi anche con quella. Difficoltà con quella piccolina farmi sentire molto forte. Questa parlo tranquillamente al porto, quella mi fa sempre basso. Vabbè, qua cosa c'hai? Il 2009? La scatoletta già del campo. Capito? Quella con la macchina piccola inviata per il campo. Ah, ok, ok, sì. Ma comunque già c'è bene anche quella. Sì, ma già andava a Vuglia. Perfetto. Sono rientrato. Ehi, Claudia, riprendimi che c'è Eugenio. Che mi sembra che sta andando al lavoro, va. Ciao Pitbull, ma com'è questa situazione? Ma vedi che rabbisco all'Arabia dei Caraibi, nave a pieno carico, vero? Tu che sei informato, perché io a questa televisione non ci credo più, ne dici poco paoli. No, la cosa giusta, ma non sono a corso di farlo però, perché già le navi a pieno carico sono sempre arrivate, non stanno girando a uso. Vabbè, vuol dire che siamo a posto allora, speriamo bene, ok. Avanti, doppio rum, riprendi. No, non c'è doppio rum, si è accettato, ecco che riprende la macchina. Che riprende dalla macchina? Vabbè, ok. E Lubrefetta è rientrato? Lubrefetta non è rientrato, devo scegliere il faraddo. C'è Natalino. Natalino. Lui. Signor Radio, dove già vai? Luda. Ehi, sembra forte stai uscendo. Meglio così. Cazzo, mi ricordo, tua povera mamma, quando parlavi tu, si intendia Radio Maria. No, ma Concetta, quando va a vedere tu, va sempre a radio a tutto volume. No, c'è il televisore, ma è basso. E lui amplifica questo cavolo di microfono e si sente tutto. Si è inteso niente la cura, la carriera, hanno inteso la cavolta. Ah, ma c'è lo stress, ti dico, vabbè. Riccardino, vai Riccardino. Ehi, allora un attimo, in QRX ci sentiamo più tardi che sto di nuovo sistemando. Prepara, che sta arrivando Fabri Fibra. Adesso già ti sistema lui. E agita da voi, agita. Lascia che ponga l'altro microfono, che intendi così come te me. Ai ai ai. Stavo guardando sul computer, ci sono i quiz per la patente del radioamatore online. Oh, bravo. Tutti l'ha sbagliato, qualcuno non ha indovinato. Vabbè, non ti sei preparato, ma se ti dai uno sguardo un attimino bene, poi li rifai, già li metti a posto, sono curioso, cazzo, voglio sentire l'80 lì con la sua voce, sono sicuro che scherreggia forte, perché quell'80 picchia, io ho attaccato qua al 430 e c'è una bellissima modulazione, parlando anche piano, molto molto forte. Vabbè, vediamo, vai. Avanti Massimiliano. Ehi, vabbè, Claudio, sono due timbri che è completamente diverse. Può darsi che non riesci a portarlo bene, Riccardo. Quando lo prova lo vediamo. Sì, ma c'ha la voce molto acuta, Riccardino c'ha. Ma quello si può regolare l'80, Cla, io non me... Sì, lo conosco, ma non mi ricordo i comandi dell'80. Mamma mia, Bitti, buona gita, ragazzi, che per Natalino fa vedermi e abbasciami le voci. Sì, Natalia, è come l'MC85, solo che non c'è il parametrico, sono gemelli. Però dietro l'MC80 c'ha un buchettino e c'è un tremerino bianco. Io l'ho messo meno della metà, perché poi spinge la radio, capito? Poi spinge la radio col processore, se non è troppo alto devi chiudere quasi il mic gain della radio. Ma spinge un bel forte. Va bene, va bene. Avanti, Pitbull. Ma sta comprando a tiro? Sei geloso di Riccardino? Riccardino sta investendo subito. Poverino, investendo. Non so se paga lui o paga il babbo, comunque sta investendo soldi. C'ha il 430, è quello che sto usando io adesso, col 60. E poi, vabbè, deve provare un microfono che gli ho dato io, sempre della Kevo. Adesso vediamo, quando va Fabrizio me lo fa sentire, se è meglio del 60 o se si prende il 60, ma sicuramente si è ordinato anche un altro 60, quindi non ha problemi. Vai Massimiliano, cosa stai dicendo? Ho detto, basta comparto anche tu e oggi. Gaffa gaffa, te lo prendi così ce l'hai anche tu, non sei geloso di nessuno, capa. No, sei bovalo, poverino. Sei bovalo, sì, hai un pesce. Due early Davidson, da 12 milioni, 18 milioni e una, camper da 100.000 euro, Mercedes da 50.000 euro, hai un pesce, bovalo. Sempre con Eugenio, quella militica. Lasciamo stare Eugenio, fra. Anche Eugenio è il tipico portotorrese, tutti biniendi, capito? È un futi biniendi Eugenio, come ho detto. Mattesi stipendio Guglielmo, mattesi di Napa, vabbè. Eugenio, vedi come ti tratta Claudio, che assicura rito. Tu sei mai fratelli, hai visto Eugenio. Mamma c'ha la televisione, Natalia. È sempre Natalia, mi intendi? E te ci già detto, quando mi hanno la tredicesima, se non hai bisogno di tredicesima, va a quella rito. Allora, una volta ci menziona, vabbè, uguale, bestia identica, che mi tocca travagliare 7 anni. Uia, uia, va bene, va. Ehi, ehi, Massimi. No, sicuramente lo porta bene, perché guarda, io non puoi guardare qui, c'ha una... Io l'ho conosciuto e parlando, c'ha una timbrica molto, molto alta, È proprio quel microfono che c'ha, che sta usando un microfono normale, perché c'ha il 60 chiuso, il processore inserito, che non ce la fa manco a spingere, se chiude il processore non intende più. E mica che c'era 1,5, sennò fischia, non l'hai visto? Quindi è proprio il microfono che non è da controllare, per Fabrizio. Perciò spero che con l'80 mi faccia sentire una bella modulazione di quella radio. E se ti ricordi bene anche col più 5 fischiavo, camblato. Ah, è vero, è vero, è vero, sì. E vabbè, ho cambiato radio perché non fa la serie. La gemma mi rigufia, chi chiede su di me, va, boh. Oh, E la vita, la sceglia. Non avere un gappa che vuoi tu, ma chi sei? Uno di questi aeroplani da combattimento. Sì, va bene. Gappa di Rosmetro. Va bene, va bene. E quei connettori che dovevi prendere, comprati te li hai? No, non sono uscito io. Ah, ero in giro io, lo sapevo. Sono andato lì alla Serva Leasing, ero stamattina, via 4 novembre, proprio di fronte a Foggiato, te l'avrei presi. Sì, tanto devo salire anche domani mattina, c'è la visita dall'azienda, capito? Già sono lì vicino, come finisco, vado, e poi non so neanche se devo andare a lavorare, boh. Mi devono chiamare adesso. Dopo la visita? Ah, boh. Oh, vabbè, anche a noi facevamo così. A blocchi, a tre, ci stacchevamo, andavamo a fare la vista e poi rientravamo a lavoro. Quindi penso che, vabbè, se ti prendono sangue, però non penso che sia giusto. No, allora, quando facciamo il prelievo, dipende, da, siamo sempre andati noi, giusto per dare una mano sempre all'azienda, quindi siamo sempre andati, anche dopo il prelievo. Però come regola la giornata, se fai il prelievo ce l'hai pagata, però siccome adesso non si può andare a fare il prelievo all'ospedale, quindi ci stanno facendo solo la visita, diciamo, elettrocardiogramma, il drag test, spirometria, queste cose così. Ah, vabbè, no, vabbè, quando facevamo quello lo stesso finendo qua. Però a volte c'era quello che se ne andava a casa, capito? Io già tornavo indietro, magari mi prendevo un'oretta così, mangiavo qualcosa, insomma, e poi rientravo, perché scendevo sempre con la macchina di servizio e quindi rientravo, capito? Però quando prendi, quando fai l'analisi del sangue è consigliato di non andarci. Mentre c'è gli altri, spirometria, queste altre cose, ci facevano rientrare, proprio obbligatorio rientrare, capito? Per quello te l'ho detto. Vabbè, già sei lì vicino, fai il giro, passi e ti riprendi, maschio e femmina, e ti ritiri pronti. Ma di quei PL Amphenol non si possono buscare? Quelli li trovi solo su internet o... Natali. Cazzo, ma se va... se non c'ha neanche il macchelite, c'ha cazzo i PL in teflon. E poi dici il macchelite non si viene i buchi, né c'è un coso marrò. Da dentro. Boh, PL giochi, sì. Lo so, ma se non devi usare grosse potenze, già vanno bene anche in teflon, usati una frutti, per fare due spezioni già vanno bene. Sì, ma io me li volevo fare a regolare con la K155 li volevo fare. Natali, io sul tetto c'ho tutto a fare, anche su una mantova esternamente, internamente c'ho quelli in bacchilite marrone, non mi ce ne è facciato mancuno, però non li ho presi da Fusaro, ok? Io li ho ordinati da uno che vende appunto materiale, connettori, tutte queste cose, e me l'ho fatti mandare da lui, mi avevo fatto mandare 5 Amphenol, 10 normali, poi 2 connettori N, maschio e femmina, 2 barilotti N, maschio e femmina, no, maschio e maschio, e poi 2 adattatori, mi sembra. Non so quanto avevo pagato in tutto, 15 euro. Addirittura me li ha messi dentro una busta, mi ha fatto una busta di quelle gialle, SDA, non mi ha fatto pagare neanche il trasporto. Se trovo l'indirizzo di Giovanni, perché non so se l'ho conservato, te lo mando. È uno che vende proprio questa cosa, io l'avevo conosciuta in fiera, la volta che ero andato con Andrea, Oceano, avevamo comprato solo di quella roba lì, PL, connettori, occhiali, spinotti, di tutto e di più. E basta, proprio era per fare un fine settimana, capito? Siamo partiti il venerdì, allora la fiera di Genova, siamo partiti il venerdì sera a Porto Torres, abbiamo lasciato la macchina a Porto Torres, sabato mattina ci abbiamo guardato, il sabato ci abbiamo guardato la fiera, poi siamo andati due giorni in fiera, pranzo, guardare, fare, perché è enorme, è grandissimo. Poi sabato sera alle 8 abbiamo preso la domenica mattina avevamo già un po' tutto adesso, giusto così per farci un giro. Abbiamo bigliato solo connettori, non un mare ne avevamo comprato, li avevo tutti dati e usati. E quando mi sono serviti me li ho fatti mandare a questo Giovanni, che non mi ricordo il cognome, mi sa Stefano, bisogna che lo dico. Dico a Stefano, ti do l'indirizzo, mi pare me l'avrebbe dato lui. Io vedi più giovane, no? So qua, ne ho le scatole piene. Accontenti, prendi. L'ultimo che ho fatto, mi metti il gruppo su della bacchellita e l'ho dovuto buttare. Ma se noi ci mettiamo d'accordo in 4-5 e facciamo un ordine, ci dividiamo, capito? Tu per esempio Natale quanto ne vuoi, sì, così, io ne prendo 10, Claudio ne prende altri 5, quello ne prendo, facciamo fare tutto un pacco, ci paghiamo un'unica spedizione, ce la dividiamo per tutti e ci abbiamo i PL come si chiede, come buoni, là. Addirittura Massimiliano ci sono anche i cosi, come si chiama, i barilotti alzano, capito? Anche i barilotti alzano ci sono, da questo qua. Ti dico solo che un PL Amphenol, 2,50 euro, quello normale, in bacchilite, ma bacchilite buona, no? Metti in serva a Fusaro, 1,50 euro, capito? Ti ho detto tutto, barilotto in bacchilite, quanto è il PL? 2,50 euro, che in pratica sono due PL. Il cavo, io la Camille l'ho comprato da lui, lo sai quanto le vendendo di Fusaro la Camille? Non lo so. A 4,50 euro. 50 al metro. Quanto? A 4 euro 50 al metro. E se macco? E la ho comprata a 2 euro 50 io. Non si può comprare niente qua. Già quell'imbattilito dovrebbero essere buoni tipo gli ampe, no? Ma se tu gli fai il pezzo della dove c'è la calza e c'è il tubo che ricopre il positivo, glielo fai appena appena più lungo, avvidendi matteci di neci, dimmi tu, avvidendimi. Sta venendo Mondetta, cosa? Si sta proprio dall'altro di via Carlo Felice. Mi ha muovito con Massimiliano, cazzo d'andaggio, che baccare dai. E l'ha ridotto una discarica a quel negozio. Ma la stessa cosa è quando vira chissà sul giovanotto che ti ha mandato. Era un po' scorbutico quel ragazzo, però il negozio era un bijou. Allora aspetta che sono entrato qua. Allora. Questo qui è correttore maschio PL259 per RG58, metallo argento, 2,70 euro. E te lo sto dicendo, sì, io li conosco questi, io ne ho un paio così con la punta argentata. Giulio, non mi ha mandato una foto, Giulio, ne ho due o tre ne ho con la punta argentata, cioè dorata, scusa, funzionano bene, vanno bene. Non si può comprare niente qua, no, non si può comprare niente. Vendendo l'RG 213, a 3,50 euro al metro mi bruciano, ma una cosa ben sa di vindì. Ma che cazzo che mondezza. Cazzo, per il collo ci prendono questi qui, sono dei ladri. Lascia perdere. Io già lascio perdere, infatti va, mi rugine giù da internet. E i miei video che devono. No, chissà che rimane in dubbio, a chi se aga? Ma anche a me ho mandato la foto, Giulio, ma certo, si vede già dal ferro. Tu gli altri non hanno l'affare giallo dove c'è il positivo, no? C'hanno l'affare giallo, si conoscono subito. Allora. Non sono mai visto come ha fatto, poi a parte il fatto che è marcato, io ti faccio la foto di uno che ho. Che ho usato, l'ho disaldato perché mi serviva, poi non l'ho usato, ma tutto bello pulito, nella ghiera c'è scritto proprio, è marcato, non è che, e quelli che ci sono sono tutti marcati, sì, quelli sono diversi professionali, si usano per i cavi quelli, come si chiama, i cosi, l'olio d'impresso, comunque, sono buoni PL quelli, hai detto, c'hanno la ghiera anche per stringere la calza, che se non molla ne ho. Perfetta, che fine ha fatto? Dove sei? Ma già ne ho più rum, la macchina dove è andata a prenderla a Roma. Quelli sono belli pieni, assobbiatevi. Sì, li conosco. Quelli sono proprio per la Camille e sono professionali quelli. Quindi quando stringi il contatto è perfetto, veramente. Sì, infatti sulla Camille vanno quelli. No, io esternamente sulla Camille, vabbè, c'ho solo un cavo di discesa a Camille, il resto è 213 con la doppia calza, che arrivano gli ispezioni al commutatore d'antenna sul tetto, io ce l'ho lì il commutatore d'antenna, e lì ci sono tutti gli altri, non sopra, sotto c'ho quelli in batilite però buona, non comprati a Fusaro, sempre di questo Giovanni, sono molto molto resistenti, e quando entra il cavo devi stringerlo con la pinza di quanto entra a pressione. Vai Massimi. Comunque questi costano 6,90 euro l'uno. Quello che ti ha mandato la foto, io lo gioco così. Questo è un buio però. Questi professionali Massimiliano, quelli sono proprio da radioamatore proprio. Quelli si usano col Ceflex, capito, con quel cavo rigido, che stringono, hanno la doppia chiusura e quell'affare che vede rotondo, quello pressa direttamente il cavo, capito? Sì, infatti c'è scritto così, Ultraflex. Esatto, già lo conosco io. Già li conosciamo, i PL buoni, solo che noi, veramente siete, trattiamo sempre davanti a Sicuria, però ti ripeto, io sul tetto tutto non fanno. Io quando stacco i PL sono lucidi, belli, non si marciscono come chi si vende il Fusaro in pratica. Una di Rosalendi, Massimiliano, sai, noi siamo abituati a far entrare bene dentro lo stagno, vero? Non c'entra niente, quello tu basta le metti una goccettina e fai uscire la punta molto fuori, le metti una goccettina, lo blocchi e poi lo tagli a misura, no? Il puntale del gaff. Te lo vedo buono dello stagno che si risciolta la plastica. Ma tu cazzo tu mi assicuro tu saldatori. È nato lì caldo, dove sciogliere lo stagno, no? Temperatura normale, penso, non è che faccio saldatori professionali, io. Come l'ho appoggiato il coso, agli altri, si è sciolto, si è diventato molle molle. Ah, vai, te l'ho cuttuto, non ammara. Ti gioco di senti, gli avvidenti solo, senza tagliare nuda. Quindi non ho scaldato un tubo, me ne è uscita la macchinetta e me ne è uscita. Ci sono in coso, allora, questo qua costa 4 euro, aspetta, 4,97 euro l'uno. E poi te li danno in bustina, gli anfe, ognuno c'ha la sua bustina, è tutto diverso, eh. Ah, va, mi rusineggia, vai, rusina ciappu, e mi rusineggia. Certo, non posso fare nulla, con chissi. Ci sono, guarda, ci sono, di quelli per cavo anche di RG58, 10 pezzi, 15,85 euro. Figura. Quelli che c'hanno la riduzione, Massimiliano? No, sono quelli corti che vanno sul 58. Avvitare direttamente, sbucci la calza, la tiri indietro e avvita. Sì, sì, secondo me quelli sono i migliori. Quelli tengono molto, quindi fanno bene massa. Fai la calza corta, la misura della filettatura, lo avviti bene sino ad arrivare a fondo, una volta che è uscito il puntale saldi, non già vanno bene quelli. Ma io in fiera avevo comprato anche, se c'è Vanino già lo già, in fiera vendevano anche gli spettroni già pronti, da 30, da 60, 90, 120, 1,5 metri, come li volevi, già pronti, io ne ho ancora. PL. Poi c'erano, vendevano anche gli spettroni già pronti con i connettori N, con i connettori BNC, N, BNC, BNC e N, capito? Tutte queste cose, tutto già pronto. Questi sono belli, cavolo. Questi sono veramente belli, aspetta che li sto guardando. Fatti a macchina, fatti a pressione. Ne ho ancora di quelli, ne ho un paio lunghi, mi pare. Da 1,20 m e poi ne ho due corti da 90 dentro il cassetto e poi ho spettroni piccoli direttamente N per le radio, se quando c'hai per dire il duplex che è NPL, capito? Ti attacchi direttamente con questi connettori qua. E vabbè, ma Noga non ha le gana di vendere nulla, Noga vende in mondezza, per carità. Aspetta, ci abbiamo dimenticato Riccardino. Riccardo! No, che ha detto che stava mettendo a posto, che deve venire Fabrizio. Oh, positivo, positivo. Cappa, sì, va bene. Allora, quel connettore, per farti capire, Natali, quel connettore in Teflon che vende lì Fusaro costa 1,50 l'uno. Fate un gol, te dovete fare bagare, mi pare 3 euro l'uno. 3 euro, 3 euro. Cazzo, quelli sono pesi, quelli come scaldi poco a poco il coso, si bruciano. Sì, ma quelli marrone, c'è una differenza, no? Quelli non so cos'è, battilite, però non so, marrone. Quelli marrone, per farti capire, Massimiliano, quelli che ho comprato da Giovanni fuori in continente, no, che è uno che fa le fiere di questa roba, non mi ha mai difettato uno. Una volta me ne sono mancati due, li ho comprati da Fusaro, tutti e due mi hanno difettato. Proprio ne fiero buntale, in treo. Sì, perché come scaldi scioglie dentro, li gira tutto intorno, capito? Esatto, perché è di merda, deve avere qualche ditta che li rimanda proprio a stracco barato, a 50 centesimi l'uno e da rivende a 3 euro, capito? È lì il problema. Mentre io da Giovanni li ho pagati 1,50 l'uno quelli e 2,50 gli Anfenor. Cosa devi fare? Qua ne approfittano perché c'è poca vendita, capito, Cla? E magari sul continente c'è più movimento di cose e quindi magari vendono di più. Ma lo sai, tornando al discorso del 2001 era Massimiliano. Il 2001 è lineare quello grande della ZG, no? Quello a valvola. E quello che mi hai mandato il prezzo tu, quello lì. Quanto era questo internet? 800? No. 500, no, non me lo metto il 500, no, quello che ti ha mandato Giulio, il 2002 transistorizzato era intorno al 840, una cosa del genere. 840, vai da Pugiare, dimmi quanto costa il 2002 scontato a me, cosa quanto mi ha fatto? 930 euro scontato a me. Quanto? 930 euro. Quanto l'hai preso? Chi l'ho ordinato, ho detto di portarlo. Allora, non ho già trincato, è da 933, dopo venire da 27. Non più qua, pittorra. Allora, incontinente, stavo parlando di 40 metri con un amico radioamatore, cioè eravamo veramente in 80 metri, eravamo. Un amico radioamatore lì della provincia di Cagliari, vicino a Cagliari, mi ha detto quando devi comprare quelle cose lì, lo dice a me, e praticamente lui c'ha un amico in continente, che glielo ha a prezzo buono, massimo che glielo fa pagare a lui è 700 euro, ma massimo è. Ma se ne trovano usati a 400 euro, 350, capito? C'era anche Stefano, ti rammenti, se l'ho provato qua, solo che non l'ha fatto. Esatto, sì, perché lui l'ha comprata a seconda mano, c'è quel rischio. No, ma comprandolo nuovo, sto dicendo io, massimo 700 euro, anche 650 euro nuovo, è un buon prezzo rispetto a quello che fanno qua a Sassari, capito? Sì, ma non rimane, vabbè, non rimane a grandire, attenzione. Quello potrebbe modificarlo come ingresso per attaccare le radio HF, però non gli vale la candela, capito? Sì Giulio, questi sono quelli che ho io, l'unico anfano è quello giallo, quello è anfano, gli altri quelli bianchi, dice Mondezza, quelli in Baltirite sono un po' discreti. Però quelli bianchi a me mi si è sciolto, quello giallo che c'hai, quello è anfero, quello sì, quello uguale a quelli che c'ho io sopra il tetto. Ascolta, quello ceramico invece come, buono lo stesso? Ti faccio una fotografia di quelli ceramici, io ce l'ho spezzone del TL922 che me lo sono tenuto, quando ho comprato un amplificatore mi hanno mandato il cavo Kenwood, non avevo mai visto queste PL, sono c'era in vetro sono, inciso PL. Via, anche quelli sono buoni, ma per fare delle ispezioni così non le vai a gandire, capito? Certo, ma quando spingi con un amplificatore del genere devi avere PL buono in ingresso e PL buono in uscita, e te faccio la foto e te la mando, va bene, in vetro. Io tutte le ispezioni, tutte fatte in batteria, io. Mi fa bene? 10, 30 euro e 02. Te l'ho detto Natalì, magari ti metti d'accordo con un altro, dimmi il zinc uno e zinc l'altro, e poi la spedizione ti viene divisa per due e così si è a posto. E infatti, me li ordino da fuori, no, non fa qua. Ma anche se devi prendere quelli in bacchilite, quelli un po' migliori di quelli dal Teflon, cosa fai? Te ne prendi una quindicina e con 20 euro ti ribigli tutti e ti fa un pacchetto, i piedi servono sempre, non è che ce li buttino. E la cosa è bella assai, non mi giocano. Guarda, io mi ho fatto, saranno 7, 8, una decina di spezzoni e c'ho tutto PL in bacchilite. Oddio, tutti gli spezzoni ce li ho tutti in bacchilite, per cui, a voglia, più quelli professionali, quelli avevo pagati quasi 5 euro l'uno, quelli i primi che ti ho mandato, quelli però sono per il PL, come te li do. Quindi sì che sono in gamba, altro che... PL che ci ho mandato, mi infetto, alta temperatura, spezzone originale Kenwood, capo grigio, proprio Kenwood, e io lo si docca lo bravo, ma PL però, mi ha fatto battaglia, pressione sono entrati, ma veramente in vetro, ma l'ho preso bene, guardalo. Io avevo anche porcellana, messo poco, porcellana. Sì, ma penso che quella sia porcellana, io lo chiamo vetro, ma mi pare sia porcellana, Giulio, Sono bianchi, è porcellana bianca, io ce li ho quelli, anche quelli, a voglia, PL che mi mancano, e se oggi mi mancano sfinuti, dai un poco, sì. Una scatola io, N... In tutto faccio barilotti N, barilotti normali, tutto ciò, c'è una scatola dove c'è tutto, vabbè, bisogna avere queste cose, no, questo spezzone io lo uso solo con l'amplificatore, ma sì. insegna anche quello che ho l'amplificato. Quando lo inserisco uso questo spezzone qua della chiave. Ma questo qui sicuro che funziona, non ho perdita. Ma ce l'ho un anno, messo che non lo vuoi. Sì, diciamo che cosa lo usi. A ripararmi la cugliuppa. Ma lui me lo fretta, già ne ho più rum, dice riprendo la macchina e l'ho ripreso. Tutti spaliti sono. Eccomi. Ah, allora un brefetta, gli arresti. Cazzo, le orecchie pelose stava facendo. No, negativo, stavo cercando di far partire un telefono che mi ha regalato mia sorella e stavo cercando di sistemarlo, sono riuscito a farlo partire, dai. Ok, mi stavo guardando qua, c'è causa problemi nel condominio, offrendo antenna Sirio Blizzard 2007, nuova, ancora con la scatola, mai montata, 100 euro. Avanti il brecco, cosa va, che c'è macchina a capo, KK, e vabbè, partito è almeno questo coso. Un brefe. Ah, Oioia. Sì, già è partito, dai. È partito. Ho levato tutti i file che c'erano dentro, ho fatto il backup e poi resettato tutto e l'ho fatto ripartire. No, funziona, dai. Come muletto va benissimo. Ce l'avevi in mano? Claro che sì, che è sempre in mano. Hai visto ti ho mandato la foto dello Shure, quello che stavo facendo poco fa? Sì, bello, un bel microfono quello. Dovrebbe anche suonare bene, insomma, la Shure fa una roba seria, quindi ne ho trovato in giro uno su internet, 45 più 15. Ma sempre palmare così, mi sembra che lo Shure, mi sembra che ce l'abbia già ne ho più rum. Ah boh. Ho trovato un'inserzione qua in Italia, 45 più 15 di spedizione. Sì, io poco così. Però, cazzo, è serio, Shure è serio, fa roba seria, è professionale. Sì, non so. E chi lo sa, già c'ho quello di Massimiliano Bulldozer che funziona benissimo adesso. Sì, non do io, no, di Massimiliano Bulldozer. Cappa Roger. Già va bene. Come dice Claudio, ottimo per la truppa. Ottimo per la truppa e puntella. E invece lo strumento sempre bene sta andando. A voi, un figurone. Un figurone, sempre dritto. Aspetta, sempre dritto, eh. E quando schiaccio l'importante è c'è l'ago sempre dritto. Certo, quando schiaccio. Diventa triste se per essere dritto lo devi schiacciare. Alla fine non te ne manca. Riprendete voi. Cazzo, non convene la fare da di così serie, no? Ma di un preso, per essere dritto c'era di chi c'ha, no, di un preso. Non è che uno solo per martellare ogni volta, per funzionare. Non ridere, no, a fatti dille. Ma Claudio chiodo arrugginito, bruciato tutto. Cosa ne so, è sparito? Non lo so. Io scendo un secondino a befferarmi, là. Vai Natalia, riprendi. Alimentatore del segnale, poi andava e diminuendo la modulazione, alla fine non si sentiva proprio più del tutto, si vede che ha bruciato lo segnale. Ma non fa così, non fa. Ma ora si andando nel torrente a B, ah, ma lo c'è, l'arrosto che hai mangiato male ti ha fatto Massimiliano, ah? Hai inteso di rivendere un vogo oggi, dovevi fare un po' di arrosto. Sì, a sudare un vogo, Emmi. A sudare un vogo, vabbè. Sì, 4,79 euro l'uno costano. Da media globe. Io in parte sono per la Camille Ultraflex RG213. Connettore Amphenol proprio, come quelli che voglio io, in bustina. Compra Natalie, compra. E compro sì, a chi va giù vaga, manidato, da Busaro, da Gosu. Anche no, non fanno. Sono Mondetti. Cosa hai detto, Natalie? Gli si manidato, sono Mondetta. La media globe a 4,79 euro l'uno. Li voglio, però sono Amphenol in bustina, vanno bene per il 213, la Camille, l'Ultra Flex. Ho capito, ma sono cari, Giovanni li vende a meno, 4,71 fuori amari. Giovanni ti ho detto ce li ha a 3,50 euro. A me poi mi aveva fatto un ulteriore sconto, insomma, mi aveva fatto pagare trasporto, niente. Ma non trovo, stavo cercando ma non lo trovo il foglietto, non mi ricordo chi è. Bisogna avere lui caffè, fanno vedere, se lo ricorda lui, perché me l'aveva dato lui il numero. Sì, vabbè, se li troviamo di meno è meglio. No, pagherò fino a 4,71, mamma così. Io se li prendo le prendo una decina, non è che... Allora, quindi 60 euro in PL. Io ce l'ho qualcuno che... Ce l'ho qualcuno, appunto. Però non mi ricordo il numero, l'indirizzo. So che si chiama Giovanni, ma non ricordo il resto. Mi aveva fatto lo spezzone, il cablaggio dello spezzone per l'amplificatore, mi aveva mandato, già pronto, capite? Quindi per quello lo conosco. Sì, infatti. E anche io ne prenderò una decina quando li prendo. Io ho pagato quelli professionali, io li ho pagati a 4,75 qua. Ma li avevo fatti arrivare da fuori, però non li ho presi qua, no? Qua non ce ne sono i quindi. Sì, ma quelli già sono ancora più costosi, ma l'Anfenol io ti ripeto, in continente, in provincia di Milano, li avevo pagati a 3 euro, massimo che fosse a 3,51 euro, capite? Quindi, ma mi aveva fatto uno sconto, non mi aveva fatto un buon prezzo perché ne avevo preso un bel di roba, ho preso una bella busta di adattatori di tutti i tipi, anche quelli dei portatili, capite? Attacchi BNC, trovetto, N, attacchi N. Tutto ho preso, anche i barilotti ci ho N io, nel caso servano per attaccare due corsi, N maschio e femmina, e ne ho preso un bel, qui mi hanno fatto uno sconto, il prezzo suo sono, PL quando sono buoni li paghi, però che lui venda a 3 euro un PL in plastica, Fusaro, è una vagonia. Io ne avevo preso di quelli 4, insieme poi alla come si chiama il microfono? Accidenti, ha un po' di catar. Al microfono ecco Master Plus, insieme a quello. Quello l'avevo pagato 4,75 euro l'uno. Io avevo preso anche 4 toroide, T200 mi sembra, una cosa del genere, adesso non mi ricordo bene la sigla, quelli colore amaranto, granate sono, per fare il balo, anche quelli ce li ho, sono ottimi anche quelli, infatti avevo fatto il balo e ce l'ho messo da parte. E avevo provato un'antenna tempo fa e andava benissimo. Va bene, per abbassare, cioè per adattare l'impedenza era, perché era solo filo e basta, no? Lo spezzone era solo filo. E allora per abbassare l'impedenza avevo fatto la bobina e coso e ce l'ho tranquillamente. Funziona con la meraviglia. E certo funzionano sempre, sì, anche a me li avevo presi quelli, però li mettevo nel positivo delle cose, per le scariche, per i rumori, insomma, delle alimentazioni. Poi io poi ho fatto la barra in rame e tassellata a muro con i gialloverdi, io ce l'ho sotto, la base sulla sopraelevata che mi hai fatto tu, sotto c'è una rastrelliera tutta forata, tassellata al muro, in rame, e lì sono attaccati tutti i gialloverdi e arrivano alle radio, agli strumenti, capito? Quindi scarica bene, non ho mai avuto problemi di fischi e di fiaschi. Massimiliano, onore a Vendettore da B, dubbre fè. Eia, no, comunque a parte gli scherzi, poco fa, no, lo strumento viaggia sempre bene, ottimo qua. Sì, beh, provato perché funziona, se no per viaggio devi rompere la mondezza, non sono abituato a dare roba che non funzioni, assolutamente, io trovo, se funziona, se non funziona verrà un pazzi, così la carichi via a girare tipi bilistri. Ma già ne ho per Roma, ho detto andare in macchina. Non si intende. È di pattuglia adesso con la radio, è di pattuglia. Ho ripreso, è di pattuglia, no? Ma ci vediamo, ha detto che è di pattuglia. Pensavo che piglia la che piombo a culo. Mi affugento. No, ogni volta che tu lo fai sentire male sto ragazzo. Già, stai calmo, là. Ho detto che sto più lungo uscito in macchina di pattuglia con la radio. E io ho detto, attenzione, non pigliare che piombo a culo. Anzi che la portante è andata. Io passi, io passi. Di ronda, di ronda. Quindi Giuseppe Tornato non ha piazzato l'antenna. Ma qua sta aspettando che la piazzino i piccioli. Chi l'ha più sentito? Non è più entrato, bu. Ma gli aveva tagliato l'antenna? Sì, aveva una muffa, buro. Addirittura. vabbè. No, perché so che forse gli dovrebbe dare una mano Luca a piazzarla. Ma l'antenna mi sa che è arrivata già boh, una decina di giorni. Boh, non lo so. Non lo so. Vabbè, sarà impegnato col lavoro. Sicuramente. Non lo saccio. Cosa fa? Camionista? Ma chi? Giuseppe. Ma Giuseppe, lo sai dove lavorava? Nella vetreria che c'è in via del Portotoso, sì. Allora, adesso è un capo lì. Un capo? Sì, comanda è lui. Scusa, è sua, Adesso non mi ricordo quella vetreria che c'è più avanti di Sapore e Profumi, come si chiama. La Savas è quello che distribuisce i vetri a tutte le altre vetrerie che ci sono a Sassari. A Sassari anche fuori ce ne sono, tipo Porto Torres, eccetera, eccetera. Loro vendono all'ingrosso, non vendono a dettaglio. Lo so, andava anche giù a Cagliari. Sì, però c'è anche la patente perché un po' di anni fa caricava il vetro e lo portava giù a Cagliari, dove capitava, capito? E poi invece adesso mi sembra che l'hanno messo in ufficio. Quindi non è, ed è sempre dipendente, ha detto comanda lui, pensavo che era la sua. No, però diciamo che si interessa a tutto lui, va. È meglio così, non spostare sempre a guidare. Io quando sono entrato mi ha rimborso la vernice a tubi fa un anno, quindi poi piano piano si crescono. Ma lui diciamo che le piaceva anche come autista, perché magari arrivava lì la mattina presto, prendeva il camion, usciva e stare tutto il giorno in ufficio è un po' godimessa la cosa, capito? Lì col camion carichi, vai, sai cosa devi fare, ti fai un giro, vedi gente, è un conto è stare lì dalle 9 del mattino alle 8 di sera sempre salvato in ufficio. Mamma mia, scusa Vea, che cosa brutta. Io infatti ho fatto di tutto per uscirmene dagli impianti. Io quando facevo il turno era una cosa triste veramente, molto molto triste. Dove si rimangiano alle 2 in Chivi, oppure dalle 2 alle 10 o dalle 10 alle 6, era molto molto triste rinchiuso. E quindi ho fatto di tutto, facendo corsi eccetera per uscirne. Ce l'ho fatta gli ultimi 15 anni, li ho passati fuori, in giro barevati me per controllare l'altri. Così è meglio. Comunque, tornando al discorso dell'antenna, so che gliel'ho ordinata e tutto, però non si è più inteso. A me mi aveva chiesto se conoscevo qualche autoscala. Io autoscala già ne conosco, ma non penso che le convenga prendere un'autoscala a 160 euro un po' più duri. Non lo so. Avanti, Lubrefe. Guarda che ti ho mandato un link su Facebook, Massimilia. Ma guardiamo. Cazzo, è sparito quel microfono da Palma Motorola che ho visto l'altro giorno, forse l'hanno venduto adesso. Ma quale? Quello dentro la cassetta? No. Quello tipo che era in dotazione alla polizia americana, bianco. Con la retina nera. Cosa mi ha mandato? Non c'ho niente io qua a me. Vado a bere un attimino. Ehi. Cosa mi ha mandato? Milomi, adesso mi è arrivato. Oia, chi è rimasto? Natalino, è ancora in ascolto? Sono qui. Si intende più la televisione, Natalino. No, c'è mia moglie pure che sta parlando, e non si sta zitta. Prende tutto quel microfono. Ma questo cos'è? Della Torres? No, vabbè, l'ho beccato nei risultati. Un sciur da tavolo. Carino. Sì, c'è anche Giulio comunque, Gianni. Me ne ero dimenticato, cioè tra una cosa e l'altra. Mentre stavo scorrendo qua me ne sono completamente dimenticato. Avanti giù. Capita, perché sei giovane, cosa devo dire io, Dando, che faccio una certa età, allora se me ne dimentichi giù non può essere anche passabile, ma se te ne dimentichi tu, comincia a esserci qualche problema. No, mi sono distratto qua guardando le inserzioni giù, e c'ho il computer acceso. Che si è confuso nel confondersi. Silvio come sta? Con un profeta. Silvio come sta? No, già sto viaggiando adesso. Andà e torna, ci sono le due cose, normali. Tutto normale, tutto nella norma, dai. Ho capito. Quanti anni è che sta viaggiando Silvio qui a Sassa? Lo sai che io non ci ho mai seduto? E penso che non ci siano mai, sono salito io con la macchina. Credo che abbia iniziato l'attività nel 2000, non ricordo bene se 2005 o 2006, adesso mi sfugge, non mi ricordo perfettamente l'anno, comunque o è 2005 o 2006. Ho capito. No, non ci sono mai salito, non ho mai viaggiato io con quel trenino, dai. E credo che non ci viaggerò mai, manco un bassogno. Veramente nemmeno col tram a Sassari. In tutta la mia vita ci sono salito sul tram, quanto ci sono salito? Una quindicina di volte, ma in tutti quanti che anni, figurati. Perché ho sempre avuto la macchina dalla. Prima avevo la moto, poi dal 66, quando avevo preso la patente, ho sempre avuto la macchina, sempre. Avevo iniziato con 1100D nel 1966 e poi a seguire tante altre, 128, 124, Opel Kadett, eccetera, eccetera, 850 Sport, Coupé, e tante altre, insomma. La Panda e una girata di macchine. E adesso mi ritrovo con una misera C3. E oltre a quella anche una Ford EcoSport. Quella nuova, è comprata 4 mesi fa, 3-4 mesi fa. Quella nuova. Mentre invece la C3, ce l'ho già 10 anni e mezzo, una cosa del genere. Anzi forse 11 a giugno, sì, 11 anni a giugno, e ha solamente 42.000 km, anche quella nuova, si può immaginare. Bene, bene, sì, le prime che hai elencato erano quasi tutte a trazione posteriore. 1100 era così, e tante altre, 124, 128, l'Opel Kadett, e tutte quante erano a trazione posteriore, quindi sì, e per conto mio erano le migliori. E ti racconto un aneddoto, una volta, una storia. Siamo scesi a Usi, no? Siamo scesi in una discesa, siamo saliti a Usi, siamo scesi in una discesa che solo le capre ci potevano scendere lì. E eravamo con un 1100L, 1100 lungo, quello tipo macchina della provincia, la presidente della provincia, e più un maggiolino. Io avevo il maggiolino, l'avevo. Beh, lo sai che il 1500L l'ho dovuto rimorchiare perché non ce l'ha fatta salire. Io con maggiolino salivo tranquillamente, ma non ce la faceva, sai perché? Perché slittava con le ruote. Mentre invece il maggiolino saliva tranquillamente, senza nessun problema. Eravamo una greffa di amici, sia con una macchina che con l'altra. Beh, l'abbiamo dovuta rimorchiare e spingerla anche per appesantirla dietro, soprattutto per appesantirla dietro, perché se no non ce l'avrebbe fatta salire a quella salita. Immagino, poi chiaramente molto, molto più pesante rispetto al maggiolino, in confronto proprio un'altra cosa. Il maggiolino era una macchina molto, ma molto forte, andava che era una meraviglia, solo che consumava, ci voleva il fornitore appresso, che consumava poco, mamma mia. vai, Massimiliano. Eh sì, ce l'ha avuto un mio amico, noi uscivamo con quella macchina, ho fatto lo conto, il maggiorino che lo facevano il sabato in quattro, ci spiantavano il gas, la benzina. E vabbè, altri tempi, là, altre cose. Allora, ti ho trovato quel microfono bianco che stavi cercando tu. Profè, te l'ho trovato, te l'ho mandato anche qualcun altro, sempre tutti vintage, guarda che carini che sono. Sempre se faccia buco? Tu messaggero. Scusate. C'è una portante, ma non stai uscendo. Aspetto sotto, scusate, ma... Sì, deve essere Fabrizio, Fabrizio sì. Però sta innestando qua questo microfono, a casa non mi viene, aspetta che abbassi il microfono. Continua a innestare però, no? No, c'è qualche problema nella radio allora, perché l'ho provato io con Roberto e l'80 stai usando, qua non fischia. No, l'MVP5 è quello che ho provato ieri a casa mia. Non so, quello di Fabri, si sta innescando di brutto. Che strano però. Staccalo, prova l'80. L'80 non ce l'ho. Come non ce l'hai? Non è arrivato Roberto ancora? No. È possibile. L'ho provato ieri a casa mia, questo su 440 andava bene. Lo so, ho trovato io anche il controllo. Non lo so, sta innescando di brutto. Massimiliano? Sì, innesco. È un problema di masse qua, ma è l'impianto, non ci puoi fare niente, è tutto l'insieme qua. Aspetta, Roberto che gli ha dato l'80, prova l'80, l'80 è del K e non deve innescare, anche perché l'ha provato Massimiliano l'80 su quella radio proprio e non innescava. Non andava bene per la sua modulazione, ma non innescava. Dalla la radio, un ritorno di radiofrequenza, non vuol dire magari lo stesso apparecchio, lì l'ha portato in un'altra stazione e lo fa, per esempio questo qua gli andava bene da me e qua invece non va bene. Bianco per me. Io. Sì, ma Fabri, innesca anche il 60 lì oltretutto, perché ieri Riccardino l'ha abbassato il microfono perché stava innescando anche con quello. Ti ricordi qua? Sì, esatto, l'abbiamo fatto abbassare infatti. Ma dove ce li ha queste radio, cazzo? Non è uno può mettere radio, ma c'è una casetta in legno, una miera, cosa c'è Fabri? Non l'ho visto io. Adesso qui ho rimesso l'MC60, ovviamente. E così può capitare, vediamo con l'altro come lo porta. Un 60 non sta fischiando però. 60 lo sai, secondo dove lo usi, come dici tu, se non c'è massa, se non c'è un bel piano di massa e se le radio sono in un posto come questo, come quello tuo, eccetera, fischia lo stesso. Molti fischiano e fanno quel cavettino di massa, capito? Però questo non sta fischiando, quindi c'è sicuramente qualcosa in più lì su quel microfono. Fabri, controllo di nuovo. C'è poco da controllare, proprio è normale, poco capita, non è, io avrei voluto avere roba, ci siamo copiati. Ascolta, cosa ti volevo dire? Adesso il rumore di alternata non ne senti però, che ho cambiato alimentatore. È vero? No, c'è, o è un avvento o è un rumore d'alternata, non voglio sbagliare, chiediamo a Massimiliano e a Giulio. Massimiliano, senti, tu cos'è secondo te? Alternata. Forse c'è una ventola, A me sembra alternata, Fabri. Vai sulle prese lì, secondo me è un problema di presa. Vabbè, più di tanto non si può fare, ho messo anche un altro alimentatore, non è che sia il top degli alimentatori, però in genere questi switch mi fanno bene. Conto è Fabri, la ventola, che la senti proprio che ventola, quella non è vera, qui c'è un'alternata proprio, capito, e sente molto. Giulio, tu come lo ascolti? Sì, c'è un'alternata, cioè, sì. Che strano però. Se abbassa un po'. Sempre alternate. Inverti la presa, Fabri, come facciamo a volte, dove è attaccato l'alimentatore, oggetti della presa, controlla lì se c'è qualche ciabatta, qualcosa. Ma è l'alimentatore, adesso puoi invertire. Sta innescando? E adesso deve provare l'80 lui. L'80 è un po' più schermato rispetto al 60. C'è quella cassa in plastica. Adesso vediamo. Anche oggi in Italia 156 morti e 642 contagi. Sta venendo una rimonti, buono.